pistola che metti a una parte sul dino. Quello che vuoi, ora sarà. Strada che scorre veloce, senza confini. Al limite al nostro pensiero, quale sarà? Pensiero di febbraio, quale sarà? Noi saremo più forti dell'angoscia. Passare dei giorni strani e sospesi, lo sguardo alle visi delusi, ora distesi. Io ti prego non distrarmi, sto sognando ad occhi aperti, ma il succo del discorso in fondo qual è? Yeah, yeah, yeah, dimmi qual è. Che bisogno c'è di stare sempre male, male poi perché? Che bisogno c'è di scappare tutti i giorni, scappare poi anche? Spero che stavolta sia con te, anche se soldi sono quasi finiti, ma ti prego tu lo sai, sconfiggi lo spettro che hai, la voglia tua di Dio in fondo dov'è? Yeah, yeah, yeah, dimmi dov'è? Che bisogno c'è di stare sempre male, male qua perché? Che bisogno c'è di scappare tutti i giorni, scappare qua da che? Che bisogno c'è di stare sempre male, male poi perché? Che bisogno c'è di scappare tutti i giorni, scappare poi da che?